Ecco qui, come già vi dicevo, siamo sui colori dell'anima, sempre con Cristina e Barbara. Ciao Barbara. Ciao, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Benissimo. Ciao a tutti. Allora, ci ritroviamo questa sera dopo un po' di tempo con il nostro solito appuntamento. Ricordiamo a tutti che ci potete seguire anche online su i colori dell'anima su radioalma.eu. E lì potrete ascoltare la nostra trasmissione cliccando su I colori dell'anima. Questa sera siamo qui per parlare di un argomento un po' particolare, un po' vago. E il titolo della trasmissione lo lanciamo, Barbara? Il titolo della trasmissione? Sì, lanciamo il titolo. Il titolo di questa trasmissione oggi è Sogno e realtà nell'Italia d'oggi. Sì, e intanto mandiamo una canzone. Proprio per entrare nel tema, ma magari la possiamo mandare anche più tardi. Sì, la mandiamo più tardi. Allora, come al solito, quindi questa sera parliamo di sogni e realtà nell'Italia di oggi e scegliamo un colore. Come di nostro consueto, durante la nostra trasmissione scegliamo sempre un colore e oggi scegliamo l'arancio. Perché Cristina l'arancio? Perché? A prima vista l'arancio è il colore degli agrumi, un colore Giusto. autunnale, quindi ci ricava un po' nell'atmosfera che viviamo adesso, ma anche perché siamo ispirate un po' da internet. Però non diciamo subito da cosa, ne parleremo più tardi. Perfetto. Intanto. Intanto lanciamo la canzone. Di Dente, Sì, sogno. sogno, ecco, arriva. E rieccoci, siamo di nuovo in onda sui colori dell'anima, sempre su Radio Alma 101.9. E intanto questa sera stiamo parlando di sogni e realtà nell'Italia di oggi. Perché? Questa sera ci siamo ispirate dall'internet, come abbiamo detto prima, con il colore arancione, e la nostra fonte di ispirazione è stata un blog che si chiama. Un blog che si chiama. Come si chiama questo blog? Si chiama Da Nord a Sud, parliamone. Esattamente. È un blog che ci mette. Che ci ha fatto scoprire un mondo, ovviamente da noi conosciuto, che però ha messo in evidenza alcuni argomenti, alcuni soggetti un po' lasciati. Dico te, come si dice in italiano, lasciati da parte. E questa sera abbiamo in onda la persona che ha creato questo blog e che ci sta ascoltando e ci sta ascoltando dall'Italia. Allora, vediamo se riusciamo a parlare con lei. Alessia, ci senti? Ciao ragazzi, mi sento Ciao! benissimo. Aspetta che c'è una musica di sottofondo. Ci senti Mi adesso? sento bene, voi sentite bene me? Sì, ti sentiamo bene. Ok, ce l'abbiamo Molto fatta. Alziamo un attimo questo volume. Allora, vediamo. bene. Ok. Ok, adesso ti sentiamo meglio. Perfetto. Ciao ragazze, buonasera a tutti. Buonasera Alessia, ciao. Che piacere sentirti dal vivo. Finalmente conosciamo. Allora, questa sera, come ho anticipato, parliamo del tuo blog. Vuoi presentarlo un po' tu in sintesi? Sì, allora questo blog è nato verso la fine di giugno, dopo che ho scritto una lettera al quotidiano della mia città, Verona, raccontando un po' che mi stava succedendo, il post laurea e non trovare lavoro, ma non solo nel mio settore, quanto nemmeno come cameriera. Quindi ho cercato di raccogliere tutte le storie di tanti giovani, non giovani come me, prese con la crisi, e ne è nato questo blog, che si chiama danordasudparlare.wordpress.com. E dopo aver raccolto tutte queste storie di ragazzi, non solo in Italia, ma anche italiani all'estero, che hanno dovuto partire perché avevano trovato niente nel nostro paese, poi ci siamo un po' allargati. Ok, e vogliamo, possiamo entrare un po' più nel dettaglio? Mi senti Alessia? Io mi sento, sì. Ah, ok, noi ti sentiamo abbastanza. Allora, vorremmo entrare un po' più nel dettaglio della tua esperienza, visto che è stata una tua idea quella di creare il blog. Nel blog ho letto che hai viaggiato in vari paesi, quindi ci vuoi raccontare un po' che cosa hai studiato, in quali paesi sei stata, che tipo di esperienza hai fatto? Sì, allora io mi sono laureata in istituzioni politiche per la pace e i diritti umani a Padova e all'incirca 6 anni fa sono partita Erasmus, sono andata a Barcellona, poi sono andata a vivere a Dublino in Francia per 1 anno e mezzo per imparare l'inglese e il francese. Poi ho iniziato finalmente con delle esperienze professionali, diciamo quindi degli stage, uno in Costa Rica, in una comunità indigena, da 1 anno e mezzo. Uno in Svizzera, in un centro di accoglienza per richiedenti asilo, poi in Belgio, per una lobby che si occupava dei diritti delle donne, faceva consulenza al Parlamento, e infine le Nazioni Unite a Ginevra. Ok, Mi quindi occupavo di come? disarmo invece a Ginevra. Ok, quindi hai fatto un po' di tutto nella tua esperienza come stagista. E Sì, assolutamente. invece quando torni in Italia ti è possibile soltanto lavorare in un ristorante? Sì, a quanto pare sì. Adesso io ho un contratto del prossimo mese, tra l'altro questo lavoro l'ho trovato perché me l'hanno segnalato, ecco, perché altrimenti le mie ricerche sono state vane per più di 10 mesi. Oltre a fare la cameriera, appunto, io non ero riuscita a trovare nient'altro. Allora pensavo che il problema fossi io, dicevo, ma forse non ho studiato abbastanza, ho sbagliato a studiare queste cose, però dicevo, sono fatti, magari sono un ufficio, avrà bisogno di me. Invece, preparando questo blog, mi sono resa conto che non ero l'unica, ma eravamo tantissimi ragazzi Sì. dell'Italia, non avevo problema. Sì, esattamente. È proprio un problema attuale condividere. Assolutamente, assolutamente. È chiaro che il post laurea è sempre, il diploma è sempre stato difficile, no? Perché dopo tanti anni di studio inserirsi nel mondo del lavoro non è mai stato così immediato, però in questo momento veramente sono delle difficoltà molto grandi, perché comunque mi sembra, ecco, come curriculum ci sia un po' di tutto, ecco, quindi non è che si può dire, ma insomma non è che avete tante conoscenze, così. Quindi teoricamente dovremmo farcela, nella pratica invece io ho raccolto più di 100 lettere in 3 mesi, quindi vuol dire che siamo davvero, ma davvero tanti a vivere lo stesso tema. Sì, è E in abbastanza Belgio, complicato. come? Alessia, poi quando è venuta l'idea di fare il blog? Quando l'hai cominciato? Allora, quando io ho questa lettera, che è stata pubblicata in prima pagina, il giorno successivo il direttore è stato tempestato di lettere di ragazzi che vivevano lo stesso problema. Il che mi sono detta, facciamo una cosa, raccogliamo, mettiamola in un blog, cerchiamo di dare visibilità a queste persone, cerchiamo di fare anche il numero, di far rendere conto anche il nostro governo, le istituzioni di quello che realmente sta succedendo, perché essendo tutti dispersi nella penisola e oltre Alpe e oltre Oceano, poi non ci si rende conto che il problema, insomma, è collettivo. Quindi ho detto, dai, proviamo a mettere questo blog, e inizialmente ero un po' dubbiosa, invece dopo devo dire che ha preso davvero molto piede, soprattutto in quest'ultimo periodo che, ecco, ho lanciato una nuova campagna mediatica che si chiama Perché, dove tanti ragazzi fotografano se stessi o qualcosa di simbolico e pongono un loro interrogativo, ad esempio perché vogliono abolire il lavoro nero, per esempio, se facendo 3 lavori in regola non riesce a prendere, voglio dire, è un paradosso, però è la verità. Sì. Ok. Capite? E, un esempio, sceglie tra vivere e lavorare, e qualcuno mi parla dell'Ilva di Taranto, ad esempio. Sì, Alessia, noi non ti sentiamo perfettamente, quindi a volte siamo un po' in ritardo. Comunque siamo riusciti a seguire. C'era un'altra domanda che volevamo farti. Qual è quindi l'obiettivo? Possiamo dire che l'obiettivo principale del blog è quello di fare informazione e di dare semplicemente visibilità ad un soggetto, a un argomento di cui non si parlava molto prima. Ma quali sono? Poi ci sono anche altri scopi più pratici dietro questo blog? Ci sono anche altri obiettivi che ti sei posta? Sicuramente quello che stiamo facendo è creare rete, quindi stiamo riunendo persone che collaborano insieme e che cercano tramite proposte diverse magari di riunirsi e di rappresentarsi quindi. Io ad esempio ho la fortuna di essere invitata molto spesso in radio o in televisione, quindi Questo mi permette di parlare anche per loro, di raccontare quello che realmente stiamo vivendo, perché purtroppo manca un movimento che rappresenti i giovani. Esattamente. Anche Esattamente. all'interno del Parlamento stesso non c'è una rappresentazione giovanile importante che possa portare avanti certe istanze, quindi questo è uno dei nostri obiettivi. Quindi è piuttosto un fine politico. C'è anche un fine politico, quello di entrare direttamente Ma nella noi scena siamo politica. apolitici, certo è che... No, noi Pronto? non è che vogliamo entrare nel Parlamento, noi vogliamo che queste nostre considerazioni vengano prese sul serio, cioè che davvero si faccia qualcosa per questi giovani, che si smetta di chiamarli ciusi quando ciusi non sono, ma si scontrano con problematiche vere, con ostacoli Che cosa vuol imponenti. dire Ciusi? Che Come, scusami? cosa vuol dire Ciusi? È la prima volta che sento questo. Beh, in Italia c'è stata una polemica, il nostro ministro Fornero ha definito i giovani italiani ciusi, ovvero tignosi, che non si accontentano del lavoro che viene, che c'è, quindi che Ah, dovrebbero sì. accontentarsi un po' di quello che viene, solamente che non arriva nulla e quindi è impossibile anche accontentarsi in questo periodo. Quindi... Ok. Va bene Alessia, noi ti intanto adesso facciamo una piccola pausa musicale e poi continuiamo l'intervista, va bene? Senti, grazie. Ritorniamo in onda con i colori dell'anima e oggi parliamo del sogno e realtà nell'Italia d'oggi. Siamo in onda, facciamo un'intervista con Alessia Bottone. Ciao Alessia, ci senti? Alessia, Voi? sì, ci senti, Ditemi ok, adesso ti questa ragazza. sentiamo anche a Io te. vi sento, voi mi sentite? Sì, Benissimo, ti sentiamo. perfetto. Ottimo. Sì, adesso ti sentiamo anche meglio, ho l'impressione. Allora, io volevo chiederti, tu ricevi tante storie di tante persone in Italia. Cosa ti colpisce di più di queste storie? C'è qualcosa, non so, alcune storie che vorresti condividere, qualcosa di divertente, di molto triste, non so, qualcosa che vorresti condividere con tutti noi? Ma io ti dico, quello che è emerso soprattutto nell'ultimo periodo è il fatto che molti ragazzi non vogliano partire, o meglio, vogliono partire magari per qualche mese, ma poi vogliono tornare. Si trovano tutti nella condizione di dire, ma perché devo lasciare il mio paese? La cosa che mi lascia più tristezza, se vogliamo, sono le mamme. Mi scrivono delle giovani mamme, avevano 30, 35 anni, mi dicono... Noi dobbiamo contare sui nonni per gestire i nostri figli, non solo come asili, ma anche economicamente. Ci Certo. troviamo davvero atteso tanto tempo, sperando in un contratto che ci permettesse di essere più tranquille, e invece ci ritroviamo con gli stessi problemi di quando siamo entrate nel mondo del lavoro. Quindi il problema che emerge è proprio l'insicurezza, l'impossibilità di progettare una vita. Esattamente. Partire, va bene, possiamo partire, ma in quanti possiamo partire? Cioè siamo 60 milioni, chi è che ci prende? Voi Sì. potete capire che c'è questo problema, cioè... E poi Poi... soprattutto chi resta in Italia? Perché Appunto, se chi resta tutta in Italia l'Italia se ne però... va, come abbiamo fatto anche noi. Esattamente, anche se io vi dico, io non punto il dito contro chi è partito, perché io stessa sono partita, ma No, mi rendo assolutamente. conto anche... Partire ci vuole un capitale iniziale perché, voglio dire, arrivi in un paese nuovo, speriamo che conosci bene la lingua, speriamo che hai trovato uno stage o un lavoro che ti permette di sopravvivere. No, ci sono una serie di perché prima di partire non indifferenti. E un conto è partire a 20 anni, un conto è partire a 40 anni, quindi voglio dire, non è facile. Esattamente, è anche e soprattutto una questione economica, perché in fondo stiamo parlando anche di economia, dei problemi attuali del nostro paese, della nostra realtà. Ma noi siamo partite nella nostra trasmissione, e credo anche tu nel tuo blog, dalla parola sogno. Ecco, come vedi, come metti insieme queste due parole tu? Come vedresti il sogno e la realtà? Come concilieresti queste due realtà nell'Italia di oggi e nel mondo di oggi? Intanto il mio blog appunto si chiama Sogno a tempo indeterminato, perché penso che questo paese non si sogni più e questo è un grosso Aspetta, problema, aspetta un attimo. perché Alessia, va bene? Sì, mi sentite? non abbiamo sentito bene di che parlavi, sogni? dicevo che questo blog si chiama proprio Sogni a tempo indeterminato, è sì. Il suo sottotitolo. Io penso che il problema di questo paese sia proprio il fatto che non si sogna più. Però per essere pragmatici, ma è anche vero che le migliori idee imprenditoriali sono proprio venute dai sogni. Se i ragazzi non sognano più, non sperano più in un futuro migliore, ma che cosa sarà di loro? Cioè saranno solo frustrati, questo è il problema. Esattamente. Va bene fare un lavoro purché si guadagni, ma persone che fanno cose che non sono attinenti alle loro capacità, comunque porteranno avanti persone che non mettono passione nel loro lavoro. Mm-hmm. Questo è uno dei problemi principali. Come conciliare? Beh, io penso ripartendo proprio da noi giovani, cioè bisognerebbe davvero investire nei ragazzi, nelle loro idee, nella capacità di mettersi anche in proprio in questo momento in cui il mercato non può offrire loro niente, aiutandoli. Se il mercato non può offrire loro niente, cerchiamo di aiutarli facendoli partire da soli, lavorando da soli. Esattamente. E proprio questa sera leggevo nel blog, prima della trasmissione, un intervento di un ragazzo che racconta la sua esperienza personale di imprenditore e delle sue difficoltà con lo Stato, proprio appunto difficoltà economiche che riguardano le dichiarazioni, il pagamento dell'IVA, eccetera. Quindi sembra che l'Italia sia veramente un paese bloccato anche dal punto di vista amministrativo, burocratico. Allora, noi abbiamo un grosso problema, noi dobbiamo rispondere a quelli che sono i patti presi con l'Unione Europea di rientrare appunto nel bilancio, di conseguenza diciamo che sono state attuate delle politiche di austerity per rientrare in questi parametri. È anche vero che cercando di rispettare questi patti al contempo si sono andate a toccare delle categorie che erano già vulnerabili, d'accordo? Come gli anziani, i giovani, l'imprenditoria che a malapena riusciva a sopravvivere. Sì. Di conseguenza c'è questo paradosso, perché se vogliamo rientrare poi in quelli che sono i patti, al contempo stiamo tassando quelli che sono i giovani, non giovani, gli imprenditori, e quindi creiamo un impatto, una situazione di immobilità. Capite che cosa voglio dire? Sì. E quindi questo giovane ragazzo che ha quasi 30 anni diceva: io la mia attività l'ho aperta da anni, però mi rendo conto, sono andato a parlare dal commercialista e mi dicono tanti di ostacoli, di tasse, non permettono neanche di assumere. Sì. Ma io lavoro ne ho tanto, ma se volessi assumere mi costa tre volte quello che mi costerebbe semplicemente pagare il suo salario, quindi c'è una tassazione fortissima nel nostro paese. Esattamente. Esattamente, e infatti sembra da... Sì, dicevo proprio da questa fotografia dello Stato, noi essendo anche dall'esterno e vivendo in una realtà diversa, anche una realtà politica diversa, possiamo anche semplicemente criticare il fatto che l'Italia è un paese abbastanza adulto, vecchio, diretto anche da persone che sono sempre avanti negli anni, ed è molto difficile per gli adulti e per i giovani entrare in qualsiasi settore, non soltanto trovare un lavoro, ma anche cominciare ad essere parte attiva nelle amministrazioni, nella politica, per cambiare le cose, perché per cambiare le cose ci vogliono nuove idee e menti giovani. Quindi questa è una piccola critica che ci sentiamo di fare e che possiamo anche aggiungere al tuo blog. Ma intanto su questa piccola atmosfera critica mandiamo un'altra canzone e poi riprendiamo la trasmissione, ok? Va bene. A più tardi. Eccoci qui di nuovo ai Colori dell'Anima. Se ci volete ascoltare in onda, siamo su 101.9. Se ci volete chiamare... Il nostro numero è 0032 02 345 2656. E intanto siamo sempre qui Barbara e Cristina, e ricordiamo che questa sera stiamo parlando di un tema che è un po' più serio di quelli che trattiamo di solito, perché in generale ci occupiamo un po' più di cultura, di musica, divertimento. Invece questa sera abbiamo scelto di parlare di lavoro e della realtà attuale. Infatti la trasmissione l'abbiamo intitolata Sogno e realtà nell'Italia di oggi. Per chi si fosse appena collegato o connesso, perché potete anche ascoltarci via internet sul sito radioalma.eu, per chi si fosse appunto appena collegato, siamo state ispirate nella nostra trasmissione di stasera da un blog che in Italia è molto conosciuto, Barbara, è vero? Sì. Mentre noi l'abbiamo conosciuto un po' così, forse di striscio via le nostre amicizie italiane, comunque, appunto. Sì. Però si tratta di Da Nord a Sud, parliamone, che non è un blog che vuole unire l'Italia o tantomeno separarla, no, visto che questo è l'argomento, ma semplicemente parliamo del mondo del lavoro, dei ragazzi e dei problemi occupazionali dei giovani italiani. Abbiamo in linea Alessia Bottone, che è l'ideatrice di questo blog, e vediamo un po' alle prossime domande. Alessia, tu adesso vai in TV spesso, anche in radio, per presentare il blog, giusto? Sì, più che presentare il blog, diciamo che forse rappresenta un po' i giovani, no? È quello l'idea che sta succedendo. Mm-hmm. Non parlo del blog, quello di cui viviamo, quello che stiamo vivendo. E come reagiscono spesso? Non so... ti invitano a venire in TV a parlare delle idee, a parlare delle esperienze che tu leggi sul blog, a parlare di tutto quello che della tua esperienza e tutto, e poi come reagiscono spesso? Come reagiscono la politica? La politica e poi anche la gente comune che ti ascolta. Ti dico, la politica non ha dato ancora nessun riscontro. Noi non abbiamo sentito nessuno che abbia detto: ma visto che siamo anche in periodo di elezioni, magari ci impegniamo affinché quello che leggiamo non succeda mai più. Per quanto riguarda invece la gente, devo dire che mi fa molto piacere, perché sono sempre di più quelli che magari vedendo la trasmissione su Instagram blog prendono contatti con me e cercano di collaborare anche nella mia attività, perché anche questo è attività di ricerca di vari problemi in Italia, oppure cercare di nuovi contatti per nuove radio e televisioni, perché dicono più ne parliamo, più forse qualcuno ci ascolterà. Quindi, sì, giusto. Ma tu come faresti per ammigliorare le cose in Italia? C'hai una ricetta, non so, che ti sei fatta intanto? Allora, se mi è così detta così, non è che c'è la ricetta magica. No. Magari l'avessi, magari. Io penso che ci vogliano una serie di cose. Io posso ridere. Ci vogliono una serie di cose. Non si sente bene. Ma siamo... Stavamo ridendo perché tu hai detto magari ci avessi la ricetta e noi ti voteremmo subito. immaginavo. No, ragazzi, io penso che è vero che dobbiamo avere questa politica di austerity, perché abbiamo promesso di rientrare appunto nei piani, ma penso che in questo momento dovremmo investire ora più che mai sui consumi, quindi non cercare di stopparli aumentando l'IVA, aumentando la tassazione, premiando chi non evade il fisco, perché in Italia c'è questo grosso problema del fisco, di questa economia parallela che è presente nel nostro paese, del lavoro nero, che non permette, noi che siamo donne, ricordiamocelo questo problema, perché anche per avere una certa indipendenza è molto difficile, perché spesso poi pensano molto indietro rispetto a tanti altri paesi, anche dal punto di vista pensionistico. Sicuramente io non, cioè, aumentare l'età pensionistica a 67 anni, questo mi va ad incrementare il problema, perché non inseriamo i giovani nel mondo del lavoro. Io ripartirei esattamente da loro, questa è la mia piccola ricetta nel mio piccolo, vero? E ripartirei anche dall'ambiente, se devo dire la verità, perché con tutte le risorse che abbiamo in Italia, dare contro all'ambiente può solo che non essere produttivo. Mi riferisco ad un Ilva, o mi riferisco all'ambiente circostante, quindi tratta di essere più riservato, ecco, a promuoverlo, a partire da questo per promuovere il turismo, ripromuovere il Made in Italy, eccetera, eccetera. Ok, quindi ci sono alcune... ci sono... Scusami, ti ho interrotto. Stavi dicendo altre idee? Stavo interrompendo, ma forse volevi parlare ancora di altre idee, di altre proposte? No, io mi riferisco principalmente al discorso della riforma del lavoro. Okay. Dovrebbe essere una riforma meno timida, quindi... Okay. E sicuramente io mi auguro che in Parlamento ci sarà una grossa rappresentanza giovanile, ma anche delle categorie che sono state le categorie svantaggiate fino ad oggi. Esatto. Ci vorrebbe una rappresentanza di queste. Poi ragazzi, la ricetta magica io non ce l'ho, però bisognerebbe anche vedere quali sono i conti pubblici per capire dove mettere mano. Esattamente. Ma allora, se possiamo fare una piccola critica, almeno io vorrei fare una piccola critica. Alessia, leggendo il tuo blog, ci sono tante testimonianze, ci sono tante persone anche dall'estero che raccontano la propria storia, che sono tutte accomunate da questa grande voglia, vitalità, sogni che poi si sono infranti e quindi molta delusione. Quindi in realtà è un quadro molto triste dell'Italia. Ma non pensi che... in questo modo non si fa altro che continuare a lamentarsi, continuare a preoccuparsi di quello che è il problema? Non pensi che questo sia un po' la tendenza della gente che continua a tirar fuori tutti i problemi, sempre a pianicolare in un certo qual modo, e poi sono poche in realtà le proposte? Ma allora, sicuramente ci sarà chi con la crisi, se già prima si lamentava, aveva questa tendenza, avrà aperto le danze, avrà detto vai, mi lamento ancora di più, va bene, però anche è vero che c'è un problema vero, cioè se in Italia voi vi presentate e iniziate a cercare lavoro, e beh, passeranno dei mesi prima che voi lo troviate. Lo sappiamo. Cioè, ecco. non so voi da quanto siete partiti o meno, quindi c'è un reale problema, anzi forse è il caso di iniziare a porsi il problema, perché io ho abitato in Francia, io vi dico, in Francia la gente gira tutte le età, girano con un quotidiano sotto braccio, cioè la politica è il pane quotidiano, in Italia invece ce ne siamo sempre fregati, ed è per questo secondo me che tante cose sono passate senza che noi dicessimo nulla, perché la politica è affare della politica, quando in realtà la politica ci riguarda direttamente, sono delle scelte che condizionano la nostra vita in maniera molto pesante, ma non solo dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista sanitario, sociale, scolastico, se vogliamo parlare anche della scuola. Esatto. Penso che sia arrivato il momento di porsi davvero il problema, di iniziare davvero a discuterne, quindi non lamentarsi, ma cercare di creare delle proposte. Noi stiamo lavorando anche su questo, è chiaro che il progetto è imponente per poter dare delle proposte. Io sono laureata in scienze politiche, non sono un avvocato, un economista, però piano piano, esatto, lavorando in gruppo, stiamo cercando di elaborare delle proposte. Esatto, quindi questo è semplicemente, abbiamo il lancio di un'idea, di un pensiero che poi speriamo possa evolvere ancora nel tempo. Ma intanto facciamo ancora un'altra piccola pausa, mandiamo un'altra canzone e poi ci risentiamo più tardi. Rieccoci qui con I Colori dell'Anima e abbiamo appena ascoltato Jovanotti, Mi fido di te. E oggi, come sapete già, stiamo parlando con Alessia Bottone, stiamo parlando dell'Italia, della situazione in Italia al momento. È difficile per i giovani trovare lavoro, del blog che abbiamo già, di cui abbiamo parlato anche. Alessia, del perché è così in Italia. Alessia, volevamo chiederti della campagna che state adesso lanciando. Ci racconti un po'? Allora, dunque, questa campagna è stata già lanciata da una settimana, come vi dicevo prima, e abbiamo iniziato con le fotografie, qualcuno ha fotografato il suo volto, altri hanno fotografato qualcosa di simbolico, e questo era un modo per iniziare a unire diverse persone, perché devo dire che ha avuto molto successo sia tramite Facebook che tramite il blog. L'ho sentito in alcuni giornali nazionali come la Parigi Italiani o il Corriere dell'Università, e alcune televisioni anche, devo dire che hanno la cosa, probabilmente prossimamente riusciremo anche a parlarne. Alessia, scusa che ti interrompo, ma vai forse un po' più vicino al microfono, perché all'inizio ti abbiamo sentito bene, adesso un po' meno, quindi forse... Io straccio il microfono, però mi avvicinerò ancora di più. Così, perfetto. Allora, dicevo che appunto questa campagna è stata seguita da alcuni quotidiani nazionali e anche da alcune televisioni, e questi ragazzi, non più ragazzi, si sono fatti le domande, hanno fotografato il loro volto oppure un oggetto, come dicevo, simbolico, e questo vuole rappresentare la necessità di avere delle risposte, cioè di capire il filo conduttore, dove stiamo andando. Toccano temi diversi, ad esempio perché sono stati tolti i soldi ai malati di SLA, perché non c'è un limite, perché devo scegliere tra vivere e lavorare o morire all'ILVA, ad esempio, oppure perché sono obbligato a partire e ancora vengo considerato troppo giovane per gestire responsabilità. Tanti sono quelli che hanno avuto un contatto con l'estero e si rendono conto della differenza. Ecco, a me piacerebbe moltissimo che anche gli italiani che sono in Belgio, che sicuramente se sono in Belgio sanno quello che è successo in Italia, partecipassero a questa campagna. Quindi per partecipare, Alessia, per partecipare alla campagna, vuoi spiegarci come possiamo fare? Sì, beh, basterebbe fare una fotografia a se stessi con un perché, che può essere messo tramite Photoshop, o alcuni lo disegnano sulla mano, sul volto, okay, come volete, su una maglietta, su un lenzuolo, quello che volete voi, e poi porre un interrogativo, che può essere in blog oppure messo sul vostro Facebook. Io sinceramente la sto espandendo anche in Spagna, appunto, e in Grecia, perché sono i paesi che sono stati più colpiti, dove i giovani appunto non sanno da che parte buttarsi per ricominciare. Sono delle domande che noi facciamo per far sì che, dato che siamo anche vicino alle elezioni, chi dovrebbe fare i nostri interessi si renda conto che nel suo programma elettorale dovrà considerare anche queste istanze. Ok, quindi vorresti anche tutti gli italiani che si trovano in Belgio e che vogliono partecipare a questa campagna, naturalmente sono invitati, certo. Speriamo che la gente partecipi con degli interrogativi, ma anche con delle proposte, anche con uno sguardo più positivo verso il futuro. E invece, sì, ripetiamo l'indirizzo del blog, si chiama Da Nord a Sud Parliamone, basta scriverlo su Google e si trova facilmente, Da Nord a Sud Parliamone. Lì potete leggere le testimonianze di alcuni giovani che hanno voluto raccontare la propria storia e potete anche partecipare inviando la vostra esperienza direttamente a te, Alessia, vero? Esattamente, all'indirizzo alessiabottone@libero.it. Quindi lo ripeto perché non si è sentito bene, alessiabottone@libero.it. Intanto, oltre a raccontare la vostra esperienza, potete anche partecipare con una fotografia e con un perché, che potete sempre mettere o su Facebook, sempre su Da Nord a Sud Parliamone, oppure inviarlo ad Alessia al suo indirizzo alessiabottone@libero.it. Siamo in chiusura, Alessia, ti faccio un'ultima domanda: che cosa ti sentiresti di chiedere ai cittadini italiani che vivono a Bruxelles o che vivono all'estero? C'è una domanda che vorresti fare? Ma ci sono stata anch'io all'estero e non vorrei fare una domanda a loro, perché so che per qua per alcuni deve essere molto difficile. Non ti sentiamo bene, dovresti avvicinarti ancora un po'. So che per alcuni deve essere stato difficile allontanarsi, invece per altri so che hanno trovato finalmente quello che tutti cerchiamo, cioè magari anche la capacità, la possibilità di avere un lavoro che ci soddisfa, o semplicemente qualche diritto, perché qui, ragazzi miei, tra stage e contratti a progetto andiamo avanti giorno per giorno, non è che c'è molta possibilità di progettare. Abbiamo bisogno di loro, visto che sono in Belgio, sono lontani, non è questo l'importante, abbiamo bisogno della loro solidarietà, perché rimasto in Italia, di unirsi in questa protesta. Qualsiasi siano i mezzi, magari la mia campagna perché non è il mezzo più adatto, ma sicuramente ce ne saranno anche delle altre proposte. Ci vorrebbe una lobby per giovani. Ragazzi, voi che siete in Belgio, i lobby ce ne sono in Belgio. Fate una lobby, fatela voi che potete. Questa è la mia domanda. Non abbiamo capito qual è la tua domanda, non si sente. Puoi ripetere la domanda? Visto che voi siete in Belgio, siete vicino al Parlamento europeo, dato che lì fioriscono le lobby, potete disporre a una lobby che tuteli i diritti dei giovani italiani, che faccia lobby? Mi avete sentita? Quindi creare una lobby che che faccia lobby per i cittadini italiani, per i giovani italiani. Ok, questa è un'idea che hai lanciato, vediamo un po' che cosa ne uscirà fuori. Intanto penso che sia penso che lo scambio con gli altri paesi sia molto molto importante, sia anche molto interessante per trovare magari delle idee, delle nuove idee che in Italia forse non sono ancora arrivate per trovare delle soluzioni ai problemi, probabilmente per cominciare a guardare il mondo o la realtà con occhi diversi, per ricominciare a sognare, visto che molti sono i giovani italiani delusi perché non hanno, purtroppo vivono in una situazione di precarietà per quanto riguarda il lavoro e l'economia attuale. Quindi su questo dobbiamo chiudere, Alessia, perché siamo quasi in fine della trasmissione. Ti ringraziamo per aver partecipato, siamo veramente molto contente di essere riuscite a fare questa trasmissione. Grazie mille, Alessia. Grazie a voi, ragazzi. Grazie. Buona serata a tutti. Ti salutiamo, ciao, buona serata, buona fortuna. Ciao. Intanto noi continuiamo gli ultimi 5 minuti della trasmissione con alcuni annunci, alcune idee, alcune news per quelli eventi per Bruxelles. Ecco, se siete a Bruxelles adesso, fino al 17 ci sarà ancora il Festival Cinema Méditerranée, Festival di Cinema Méditerranée. Ecco, brava. e quindi potete vedere film mediterranei per massimo 5 euro, ci sono a 3,50 euro, fino a 5 euro i biglietti. E saranno tutti li potete vedere al Botanique, quindi è anche una cosa carina per vedere un film al Botanique, potete andare lì, ho visto il programma, sembra molto interessante, quindi guardatevelo online, trovate quindi il Festival Cinema Mediterraneo. poi un'altra cosa, il mercato natalizio comincia qui a Bruxelles il 30 novembre, per chi interessa. E un'altra cosa che ho letto che ho visto al telegiornale è che quest'anno per la prima volta non ci sarà un albero natalizio tradizionale, quindi il pino come c'è sempre, no, quest'anno c'è l'abete, brava, grazie. Vabbè, il pino. Quest'anno c'è un albero moderno, arte, non so, è proprio una scultura più che altro, sul Grand Place, con luci, con tutto, dove si potrà anche entrare pagando 4 euro. E quest'anno sì, questo è un po' si sta discutendo adesso a Bruxelles. Costava di più comprare questa cosa qua che avere l'albero naturale, tradizionale, e poi c'è un po' questa, però sarebbe interessante vederlo comunque. Quindi un albero moderno. Moderno, ecco. Di un artista francese. Poi c'è un corso di tamburello e tamborra. Ci sono alcune date per quel corso.